Gli Irrinunciabili presenta Predator, un film di John McTiernan. Che cos'è Predator, se non un concentrato di muscoli, pallottole, testosterone, macismo e ancora testosterone? La presenza femminile è ridotta al minimo, non serve. È chiaro che è un film per veri uomini. Il cast è composto da gente come Jesse Ventura, che mastica tabacco perché è un tirannosauro superdotato, parole sue. È una persona che si è sparata 6 anni di Vietnam, poi il soggetto in questione non contento è diventato governatore del Minnesota. Abbiamo poi gente come Sonny Landham, ex attore porno che sul set era tenuto d'occhio dalla sicurezza per via dei suoi trascorsi di violenze e risse. Ha cercato anche lui di diventare governatore, ma senza successo. Abbiamo poi Sean Black, che ha giusto scritto la sceneggiatura di uno dei film più fighi di tutti i tempi, L'ultimo Boy Scout, con Bruce Willis. E ovviamente Arnold Schwarzenegger, futuro governatore della California, con tutto il suo carisma, il suo sigaro, i suoi muscoli nei panni del mitico Dutch. Quando stringe la mano al mitico Apollo Creed, la stretta diventa una prova di forza e macismo, e i livelli di testosterone avrebbero potuto creare dei cataclismi. Capite subito che ci troviamo di fronte a un cast di uomini che probabilmente avrebbero veramente affrontato un Predator nella giungla. I seguiti, i vari spin-off sono tutti più o meno dimenticabili, anche perché quando ti affidi a Adrien Brody che cerca inutilmente di fare il duro o a Raoul Bova e pensi al cast del film originale, capisci subito che non si fa così e che l'unica persona degna di uccidere un Predator è Schwarzenegger. Parliamo dell'alieno, ovvero il Predator, nel cui costume in origine ci volevano infilare Van Damme. Poi hanno optato per i 2,20 di Kevin Hall e non è stata male come scelta. Non è una stupida bestia setata di sangue, ma un cacciatore arrivato da lontano pianeta che si sta godendo la sua battuta di caccia. I soldati cappeggiati da Schwarzenegger sono le prede. Tutto in mezzo c'è la giungla. Abbiamo echi della guerra in Vietnam. La svolta è comunque il Predator. Insomma, per capirci, siamo negli anni 80. Arriva un alieno da lontano pianeta e comincia a uccidere e scorticare per diletto persone nella giungla. La possibilità di cadere nel ridicolo non erano alte, altissime. E questo dipendeva in gran parte dalla buona riuscita del film, ma McTiernan è un regista intelligente, per cui abbiamo avuto un vero cacciatore, plausibile, di cui forse capiamo anche qualcosa del suo modo di essere. Le sequenze in cui vediamo in prima persona dalla prospettiva del Predator sono fantastiche e iconiche, ed è una delle tante scelte azzeccate che rendono il film quel capolavoro che è. Abbiamo tutto, c'è il cameratismo tra i soldati, che sono ben caratterizzati, ognuno con una propria personalità peculiare, abbiamo la tensione e l'orrore dell'alieno, battute epiche, sangue, pallottole, tante pallottole, e abbiamo insomma delle scelte stilistiche che sono veramente fichissime. Pensiamo all'arma principale che usa Jesse Ventura, è un M134 minigun, una mitagliatrice a canne rotanti usata di solito a bordo degli elicotteri da guerra, ma lui la prende in mano e va in giro nella giungla a sparare con questa mitagliatrice da elicottero. Sul set gli attori col fisico più possente erano entrati in un trip competitivo tra di loro e dunque si allineavano di nascosto agli attrezzi per apparire più grossi e in forma rispetto agli altri. E in tutto questo c'è Predator, secondo me. Di questa pellicola però ci rimarranno anche le musiche. La colonna sonora di Alan Silvestri è fantastica, è un giusto mix di tensione e suggestione. Per cui tuffatevi ancora in questa goduria filmica e godete degli anni 80 al massimo della loro potenza. Get to the choppa. Buona visione.